Nuova in difesa, prendersi giorni che non hai te. Tu resti in casa, lei scende per strada, chiede permesso di vivere. Resta ancora un poco appeso a un ramo, poco sarà estate. Reduce illesa, prendersi giorni che non hai già. Qui guarda intorno, respira profondo, studia la mossa più consona, ma resta ancora un poco appeso a peso al ramo. Nuova in difesa, prendersi giorni che non hai te. Tu resti in casa, lei scende per strada, non chiede permesso, vive.